Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 16 febbraio 2015. Diluvio di dati in rete. Siamo a 1000 miliardi di gigabyte. Come previsto, il 2015 potrebbe essere l'anno alla fine del quale raggiungeremo quota 1000 miliardi di gigabyte di traffico sulla rete. La quota di un zettabyte, cioè 1000 miliardi di gigabyte, era stata indicata come probabile per quest'anno dalle indagini di Cisco Visual Networking Index del 2011. In 4 anni il traffico internet è quadruplicato grazie soprattutto a 4 fattori: la crescita dei dispositivi connessi, tablet, smartphone e smart TV, e il raggiungimento di 3 miliardi di utenti in rete, l'aumento della banda larga e il boom dei video online. Per l'anno prossimo, inoltre, confermata anche la crescita del traffico internet globale su reti mobili a 130 exabyte l'anno, pari al contenuto di 33 miliardi di DVD. Fin qui la notizia del 16 febbraio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. David Bevilacqua, amministratore delegato di Cisco Italia, traccia così il quadro dello sviluppo di internet nei prossimi anni. Abbiamo previsto che nel 2015 ci saranno oltre 15 miliardi di oggetti e apparecchiature connesse al web. In un anno da oggi sfioreremo lo zettabyte di traffico, che per darvi un'indicazione significa 245 terabyte di dati al secondo, e per metterla in termini pratici equivale a circa 200 milioni di persone che contemporaneamente ogni giorno, tutti i giorni dell'anno, guardano in streaming un film ad alta definizione su internet, per cui un cambiamento completamente radicale rispetto ad oggi. Il nostro studio ha determinato che il traffico mobile sarà di 18 volte maggiore rispetto ad oggi. Questo succederà perché ci saranno soprattutto sempre più oggetti e device con connessi al web e alla diffusione di strumenti come smartphone, portatili e tablet. Il video poi ha una componente fondamentale, perché entro il 2015 ogni secondo transiteranno su internet 1 milione di minuti di contenuti video per una durata pari a 674 giorni. Per darvi un'idea ancora più concreta, nel 2015 1,5 miliardi di utenti fruiranno di contenuti video online, erano solo 1 miliardo nel 2010, per cui in poco meno di 5 anni ci sarà un 50% di crescita degli utenti che fruiranno di contenuti video attraverso la rete. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anarita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.